Smilog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. E non si vergognano, eh? Non si vergognano. Diga? Sì, dico! Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene? Tutta sta roba. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Ne sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. No, mi consente un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stato a capire più un cazzo. Ma da voi! Era facile definire il radical chic. Tuttora è molto facile. Spessissimo uno degli insulti, perlomeno dal punto di vista di chi me li appioppa addosso, che più facilmente leggo negli sms degli ascoltatori, sei un radical chic. Qualcuno dice anche un 68, ma io nel 68 ancora sognavo il motorino Minarelli 50, volevo andare a fare il motocross, figuratemi, io 68. Comunque questa idea del radical chic continua a rimanere nell'immaginario comune, quando ormai il modello antropologico è fortemente evoluto. Il radical chic non esiste più, anche perché nella sua versione maschile o esteriormente tale ha problemi di prostata, di pannolone, di catetere, ormai non si esprime più se non in luoghi di cura. Nella parte femminile è irriconoscibile nelle sue fattezze quando lo incontriamo per strada e possiamo scambiarla con una qualsiasi suonatrice d'organetto nella metropolitana, perché ormai così vetusto, antiquato e antico il suo modo di vestirsi, di maledirsi esteriormente, di spettinarsi, di non curarsi, di ciabattarsi, che la pigliamo per una povera rumena che va in giro a chiedere la carità. Chi è oggi l'esito antropologico del radical chic? Nessuno lo sa. In realtà esiste una definizione piuttosto bieca, basata dai nuovi giovanetti della destra sinistroide, che sono quelli profondamente, radicalmente fascisti nell'anima, ma apertamente illuminati e stoicamente capaci di impugnare il maggior disprezzo di ogni pregiudizio per sentirsi collocati in una fascia intermedia intellettuale che ancora non esistono e ben definita. Oggi il termine più esatto, il termine più illuminante dell'evoluzione del radical chic è l'aristodem, termine che ho conosciuto soltanto poche ore fa quando ho avuto per le mani un libro che secondo me sarà la Bibbia della lettura di questo esito antropologico della classe umana che ha costruito, formato, illuminato, radicalmente strutturato quello che sono le linee estetiche, le linee culturali, le linee di comportamento, le linee del buon vivere di questo paese, che oggi ahimè marcisce sul bordo del suo sepolcro. E chi verrà dopo di loro? Verranno gli aristodem. Gli aristodem sono i protagonisti di una profonda e acuta indagine antroposociologica fatta da Daniela Ranieri, che è una giovane scrittrice e saggista, che ha scritto appunto Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, edizione Ponte alle Grazie, che è uscito proprio ieri e da ieri sta in libreria. Sono bastati 2 o 3 rapporti poco protetti e io mi sono trasformata in una radical chic. In men che non si dica tra una riunione di lavoro, una cena, un aperitivo, un cocktail, un brunch, un vernissage, un tappeto rosso, un tappeto etnico, un sushi, una presentazione di un libro, un infradito, una nuance, una maglia écru, una spesa al mercato biologico a chilometri zero, una serata in beneficenza per Gino Strada. Io mi sono... Daniela Ranieri, buongiorno. Buongiorno. Vediamo di affrontare scientificamente il problema dell'evoluzione del radical chic. Noi abbiamo sentito questo monologo di Paola Minaccioni in Mary Poppins, che definisce comunque alcuni caratteri comuni, ben conosciuti, del medio terrazziere romano, del medio signore e signora milanese, che in fondo per anni hanno rappresentato l'egemonia del pensiero positivo in questo paese. Come quando il Radical Chic ha cominciato a scindersi, a evolversi, a diventare anche, come tu dici, Aristodem. Guarda, mi fa piacere il tuo riferimento ad un approccio scientifico. Io mi sono sentita un po' come Piero Angela, no? Che fece il viaggio dentro il corpo umano. Io l'ho fatto sulle terrazze romane. E ho cercato di fare appunto un viaggio sentimentale, intellettuale. Ti facevano fare la cameriera, tu davi tramezzini. Ma no, loro mi amavano per un motivo molto sottile e molto feroce, che a prima vista non potrebbe sembrare. In realtà io per loro rappresentavo proprio il volto nuovo, proprio perché ero un'estranea, una proletaria, non avevo aderenze, non avevo conoscenze, né ma dietro le spalle ti prendevano per il culo però. No, all'inizio veramente mi amavano, poi ovviamente sono sorti conflitti. Non ti sei fatta plasmare? No, ero profondamente eterogenea. Se no oggi eri Daniele Murgia, non stavi qui a fare Daniele Ranieri. E quindi insomma questi sono un po', come dicevi tu, rimasugli di sinistra militante che non hanno più un referente politico nel senso partitico. Ecco, quindi... il primo problema del Radical Chic non ha più un referente politico. Sì. Non sa più per chi sbracciarsi, per chi sognare, per chi emozionarsi. Sì, già vedi, nel film di Virzì era molto chiaro, no? Il posizionamento politico, c'era Silvio Orlando, che qui tra l'altro è uno dei personaggi a suo malgrado del mio libro, insieme a Laura Morante, che è un po' il referente antropologico di questa nuova classe o pseudoclasse, che è in realtà una rimasticatura anagrafica anche di quel radical chicchismo. Sì, è come il cappottino rivoltato dei tempi della guerra, sì, alla fine sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi e soprattutto hanno figliato, quindi i loro figli hanno con i loro compagni. La possibilità di scegliere figliato con i loro compagni. Esattamente. Qualcuno non ce l'ha fatta farlo nemmeno secondo i metodi naturali quando è andato in Spagna per farlo. Sì. E quindi... qualcun altro è andato in America, se l'è fatto con la siringa, col seme surgelato fra donne. Poi? Esattamente. E quindi niente, essendo mancato il riferimento politico... Ah, scusa un attimo, politico... 80024 0024, non è che gli ascoltatori sono esclusi, dateci elementi. Noi stiamo definendo una nuova classe umana che voi vi troverete fra le palle necessariamente nei prossimi 50 anni, perché sono giovani, sono ben nutriti, si curano, vanno nelle spa, vanno a seguire il percorso di Chatwin, quindi fanno una vita molto salubre e quindi ve li ritroverete ancora belli conservati quando voi sarete in età d'ospizio. Quindi dateci dei segni per individuarli. Andiamo avanti. Allora, Daniele Ranieri, continuiamo a definirli. Non hanno referente politico, hanno scelto dei distintivi. Bersani gli fa schifo naturalmente. Ma loro votano PD, a volte non votano nemmeno perché non prendono la metropolitana, quindi non hanno idea. Quando c'erano le primarie fra Bersani e Renzi, erano quelli che dicevano Renzi, no, nemmno Renzi, troppo burino alla fine. Sì, Renzi non va bene, è troppo tecnocasa. Tecnocasa, sì. E quindi loro chi vorrebbero? Gli piaceva Vendola, ma Vendola... anche ha passato il fosso, non è di loro. Sì, no, ormai è andato. E beh, è difficile, chi? Appunto, non hanno un referente politico, hanno ripiegato... Letta però è bravino, ne sta mettendo molto Letta nel è bravino perché è concreto, realista, no? Quindi ha messo c'è tutti questa, dentro. Il radical chic contemporaneo, intanto io voglio mettermi al riparo dall'accusa o dal sospetto di aver abbracciato l'opinione della destra populista nei confronti di questi radical chic, no? Io sono quanto sì, di più è distante... Sì, è l'opinione più cialtrona. È l'opinione che non ha alcuna sostanza. Sono quelli che si sono tolti la catena, l'hanno appesa al chiodo e sono messi, diciamo, le bretelle d'autore... Sono entrati per la prima volta nei salotti che hanno sempre sognato e guardavano dalla fessura del portone e adesso naturalmente fanno buon viso. Si sentono radicalmente tollerati perché loro sono come gli altri, quindi dicono che bello, ci piacciono tanto i froci anche a noi, siamo tutti d'accordo, però in realtà li farebbero a pezzetti nel tritacarne. Nel libro le dico, loro in realtà sono anche peggio. Quindi. Allora andiamo avanti. Quindi la tua posizione non è quella della destra che attacca le radical chic come suo nemico genetico, perché quello che ha studiato è quello che si contamina, loro sono ancora... È l'intelligenza. C'era un libro scritto da un ex ministro della Repubblica, non ricordo se fosse Bondi o Brunetta, insomma il livello era quello, che si chiamava l'egemonia culturale della sinistra, no? Che insomma un titolo è sempre stato il cruccio della neodestra, sì. Mentre c'era una destra tradizionale che studiava, che bene o male aveva delle basi concrete, poi poteva essere criticabile nella sua espressione ideologica, la neodestra non ha mai studiato, ha avuto 30 anni, ha avuto un po' per difesa, un po' per offesa, pensare a portare a casa la pelle, quindi non c'hanno voglia di studiare, poi in realtà la loro filosofia era un'altra. E adesso si trovano di dover parlare, di cosa parlano, con quali strumenti parlano, li salva Twitter, li salvano i tablet, che in fondo è un linguaggio molto condensato e ci si sente moderni. Esattamente. Invece la sinistra ha ripiegato su un tipo di cultura debole, per questo non c'è un referente politico forte perché loro sono molto vicini al movimentismo, no? Perché si porta bene, è molto easy il movimentismo, quello degli ex girotondi. Che poi ecco, è diventato... oggi l'Aristodem, quando scende in piazza prende posizione, per quale tipo di grandi battaglie lo fa? Quasi mai per, molto spesso contro. Contro, un esempio? Per esempio il movimento Se non ora quando, ah, no? Ecco, sì. Che è contro l'uso del corpo della donna, anche qualora è la donna a voler usare, come piffero usare e far usare il proprio corpo. Proponendo tra l'altro un modello di femminilità e di sessualità che coincide pericolosamente con quello proposto o imposto dalle destre e dalla Chiesa Cattolica. Quindi sono come delle madri badesse, le Aristodem, scendono in piazza perché dicono alle donne che non dovrebbero far vedere il culo, quando poi magari... O rifarsi, no? O rifarsi, guai, guai. C'è il famoso documentario, per altri versi pregevole, di Zanardo, in cui il volto... Ma diciamo, un'idea commerciale che ha funzionato, sì. Evidentemente. Il volto botulinizzato viene definito burca di carne, no? Guarda, quella è la mia definizione. Prima dire che in effetti l'uomo occidentale imponeva un burca alla donna, sono stato io perché l'ho pensato, l'ho detto, l'ho immaginato, ma lo osservavo, non dicevo che facesse male. Ognuno fa quello che più gli aggrada. Sentiamo un attimo Enrico. Enrico, buongiorno. Sì, datevi una mossa, date un contributo, se no soccomberete e sarà il vostro destino sotto la morsa degli Aristodem. Enrico. Pronto, buongiorno, sì. Mi sentite? Nuovi radical chic, non quelli vecchi. Quelli vecchi non ci interessa più, sono morti. No, nuovi radical chic. Io trovo... Chiamiamoli subito per il termine giusto, sono gli Aristodem. Cominciate a memorizzare questo termine. Ok, Aristodem. Io noto due aspetti contrastanti che sono anche trasversali, cioè non hanno un segno politico. E se no come fanno a galleggiare, scusi? Non essere pronti su entrambi i fronti. Giustamente. Vogliono il mondo gratis, ma qualcuno il mondo lo deve pagare, anche perché vogliono essere pagati per ogni minima ma bisogna lavorare gratis. Poi, quello è un problema, scusi. Lo so, però giustamente questi dicono, ma io ho lavorato, voglio essere pagato, però vuoi il mondo gratis. Vogliono la musica gratis, i film gratis, scaricano tutto a manetta attraverso sistemi di scaricamento più o meno illegale. Quindi fermo un attimo, questo è interessante. Daniela Ranieri, rispetto alla cultura digitale, come si comporta l'Aristodem? Sono quelli che twittano. Sì, twittano, ma sono anche molto ostili, in un modo molto snob. Continuano a dire che non ho la televisione, sì, non guardo la televisione. Cioè, stai a filo col microfono. Così. La cultura alta e la cultura bassa è una definizione che ancora funziona, no, per sì, loro. Alto e basso. Alto e basso, sì. Diciamo che... segnando questa differenza tra cultura alta e bassa, amano anche molto mischiarla, però tenendo le redini di questo cocktail, no? Quindi Bombolo con Cannavale insieme ai seminari di Lacan. Sì, lo riscoprono adesso Bombolo, quando noi andavamo pazzi per Bombolo, loro ci guardavano come se fossimo dei barbari, quando io scrivevo facendo i calcoli delle diottrie nel genere umano italiano che ha fatto fulminare Edwidge Fenech, mi dicevano che ero un maniaco, oggi dicono tutti questa cosa. Laura da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque io mi domando qual è il problema essere un Aristodem al giorno? Nessuno, lo stiamo classificando, stiamo facendo. A me piace un atto di giustizia. A lei è un Aristodem. Dirmi tale. Ah, benissimo. No, siamo io contenti. Sono una qui che vota a sinistra, vota il Partito Democratico, tappandosi il naso ultimamente, ho sostenuto Renzi. Sono una cui non piace prendere la metropolitana, sono una cui non piace prendere i mezzi pubblici, sono una che piace. Ha ragione, scusi Laura. Sei una persona ragionevole. C'è un sacco di puzza e fa caldo, sarebbe meglio andare con il taxi, lo so benissimo. Ma è vero, non è che voglio fare il catalano alla situazione, potendo scegliere è preferibile andare in bicicletta in una città deserta, in taxi in una città trafficata, non bisogna nemmeno guidare, ma uno se deve andare in metropolitana si tura il naso e ci va. Vada avanti, perché visto che lei ha il coraggio di mostrarsi come un esempio di questa categoria antropologica, finora non si è mai, non ha fatto mai coming out, sono sempre rintanati in una loro anonimato generazionale, ci aiuti a definirlo allora. Guardi, non ho pregiudizi, ho soltanto mosso dall'istinto di dover definire, poi non è che dico debbano esistere o non debbano esistere. Tra l'altro io ho raccontato questo gruppo umano, diciamo le persone che lo hanno ispirato sono persone reali che sono state e sono ancora mie amiche, io sono entrata in questo gruppo. Sì, ma Laura se permetti, Laura da Brescia che chiama, è giovane, ha 24 anni, quindi esattamente, lei viene da una famiglia di radical chic, quindi essendo Aristodem. Beh, Parzialmente, mia madre sì, mio padre no. Descriva però... sua madre, così capiamo un attimo. Il padre è stato ex militante dell'estrema sinistra, certo. E sicuramente non veniva da una famiglia agiata. La mamma sì, e il risultato sono io. Beh, la mamma era la tipica signora della sinistra, sì. Bene, che sposava il guerrigliero per avere il frisson del vero maschio. Esattamente. Poi il padre l'ha mollato, chiaramente, sì. L'ha scaricato a un certo punto. No. Ah, se l'ho tenuto ancora? Se l'è tenuto ancora e l'ha modificato, diciamo che... Geneticamente modificato, sì. Le donne sono capaci di plasmare gli uomini a loro piacimento. Eh beh, questa però è un'affermazione che una radical chic non avrebbe mai fatto. No. Non è vero. No? Assolutamente. Vada avanti nel definirsi. Ma quello che a me dà fastidio del giorno d'oggi è che si ritiene che votino a sinistra, militino nei partiti di sinistra solo coloro che... Non hanno soldi, non vogliono vivere una vita con le comodità. Questo io non l'ho mai pensato, nemmeno in fasce, signora. Venendo da Perugia, una città in cui le ville più favolose, i compagni di scuola più ricchi che venivano col Ferrari erano tutti i figli dei dirigenti del Partito Comunista, io non ho mai pensato una cosa del genere. Guarda, l'Aristotem più genuino spesso neanche vota. Ma vada avanti, fai delle domande a Laura da Brescia, visto che ne abbiamo beccata. Ma non lo so, quanto spendi per un menù, per un pranzo, non so, da Italy? Ma quello che serve per... ma anche 50 euro, non ho problemi a spendere. Ma lavori? No, non lavoro. Che domanda. Scusa, no, perdonami. No. Era un pregiudizio. Cosa del volgare, tutto... scusa. Mai... Sì, però avrai delle collaborazioni. Avrai amici con case editrici, con case di produzione Rai, che ti fanno fare dei bei programmi educational, queste cose qua. Spero almeno questo. No. Beh, come farai prima o poi a darti, diciamo, una sorta di vestito? Quando ti chiederanno che fai, cosa rispondi? Vedo gente. Ma per ora studio e quindi tengo public relation con i miei compagni. Ah, ecco, public relation. Va bene. Prima o poi mi butterò nel mondo del lavoro, più poi che prima. E, ad esempio? Che aspirazione hai? Ma politica mi piacerebbe. Cioè non fare un cazzo e prendere soldi, questo sarebbe... Politica, beh, non tutti i politici non fanno un cazzo. Beh, dimmene uno che fa qualcosa. Uno, due, tre, quattro, Ambrosoli, cinque, regione Lombardia. Ah, sì. Però non l'hanno eletto, poveretto. Però fa il suo dovere. Sì, beh, certo, va tutti i giorni a lavorare. Anche il professor Chiappini, che mi manda non è in questo momento, viene da Frascati col trenino. Ma non è che voglio fare il populista, Io amo chi riesce a vivere... con il frutto del proprio cervello, quindi andiamo avanti. Fermo un attimo, Laura Bressa, Dennis da Padova, forse ne abbiamo beccato un altro. Buongiorno. Dennis, Aristodem? No, io no. Mannaggia. È il suo capo Aristodem, lo descriva, vediamo sì. Se poi Laura... Vediamo se corrisponde. Laura la teniamo però perché è l'unica che ha avuto il coraggio finora di fare coming out, e ci piace. Dennis, descriva il suo capo. Allora, 55 anni circa. Sì. Benestante, ovviamente. Sì, ma non bisogna avere lo schifo dei benestanti. Tutti vorremmo essere benestanti. Sì, infatti, ma anch'io. Ecologista. Vegano. Sì, però fruttariano? Fruttariano. Germogliano? Integrano? Sì, integrano. Okay. Io non so manco cos'è integrano. Fidati. No, ma neanche io intuisco. Vabbè, è integrano. Allora, integrano. Poi cosa fa? Coltiva l'orto. Certo. Bene, urbano ovviamente o fuori? Leggermente fuori. Sì, leggermente fuori, esatto. Però va a mangiare slow food. Logicamente, questo è il minimo. Paga. Anche chilometro zero naturalmente. Certo. Sì, tanto chilometro zero, poi mi consiglia una buona pizzeria a circa 100 km di distanza. Perché usano il lievito madre. Perché usano il lievito madre. Bravissimo. Hai mai mangiato da Michele ai tribunali? No, ma io ho la madre del lievito nel frigorifero. Sembrano cioè, quella zombie. Calabrese della nonna. Certo. Sembrano zombie. Oltre al frigo c'è questa massa puzzolente. Sì, Dennis. A proposito, se l'è portata in ferie. La madre del lievito, è chiaro. Sì, perché non potevo lasciarla. E come fa a farne a meno? Se non la possiede almeno due volte al giorno, poi... Certo. Io non voglio entrare nell'intimo di cosa facciano con la madre del lievito queste persone. In che città vivi? Padova. Ah, Padova. Beh, Padova è una città, diciamo, che è stata all'università. Piena di scaturigini, dalla mistica del santo agli movimenti di estrema destra al tempo delle bombe di Piazza Fontana, c'è stato tutto. Assiduo frequentatore di circoli culturali, secondo me, non ha mai letto qualcosa sia stato scritto. Beh, manco, nemmeno io ho letto il libro di Daniele Ranieri, sto millantando, questo fa parte della nostra generazione di millantatori e cialtroni. Poi, come si comporta dal punto di vista delle relazioni? Allora, ovviamente dal punto di vista delle relazioni sul aperto. Cioè parole, lui è aperto. Parole, però per le sue dipendenti, le ferie... No, le relazioni nel senso va con uomini, con donne, si vanta, lo fa discretamente. Allora, si vanta di un passato, ora è tranquillo. Beh, quella è la vecchia te, che è una volta così. Perché tutti Lupi, sperano che qualcuno vada a verificare. Ma... Ovviamente sostanze più o meno leggere. Ah, si fa le canne, certo. Come consumi culturali? Sì, una cannettina fra amici, che io quando vedo i settantenni nelle terrazze, capito? Che con la dentiera che traballa, dicono, ci facciamo una cannettina, ancora con lo spirito di trasgressione, capito? Mentre i coatti sono quelli che sniffano coca. Chissà se mi sta ascoltando. No, ascolto, certo, ascolto. Sì, sì. Ah, se la sta ascoltando la segherà. Ecco, quale sarebbe la vendetta dell'Aristodem? L'aveste mai ascoltata? Quale ritorsione opererebbe su di lei, Dennis da Padova? No, probabilmente la prenderebbe anche bene. Sì, sì, perché glielo diciamo spesso. In questo caso lo sa, ma spesso loro non si riconoscono. Sai, la cosa che mi ha salvato scrivendo questo libro, che sono sicura che tutti quelli che l'hanno ispirato diranno pure, come successe per la Narcisata d'Arbasino, diranno, ma che bella fiction, non si riconoscono. Per la stessa ragione per cui tutta una classe terrazzieri romani sta dando contro il film di Sorrentino dicendo che schifo, sembra Evanzina, quando in realtà è una delle più implacabili letture di quel tipo di società. Ma siccome tutti ci si sono rivisti e tutti lo rimuovono, tutti fanno finta che siano a Chiavica. Melog. La realtà condivisa. Eviti i cinema in periferia! Perché ti dà fastidio che in sala... parlano tutti! Ah, ti danno fastidio gli spettatori, ti danno fastidio proprio gli attori sul grande schermo! Eh sì, perché per te ormai un film o è muto o è commerciale, The Artist, un capolavoro! E questo lo dici tu, che a 15 anni al cinema ti portavi pane e frittata. Vabbè, ho capito, è passato del tempo, tu! Che a 15 anni sbavavi ululando davanti a Tom Cruise in Top Gun, ho capito, tu! Che a 15 anni te rotolavi sull'asfalto di Via del Pigneto per vincere il campionato di pallavolo e diventare da grande come la tua eroina dei cartoni animati giapponesi, Mimi Ayuara! Via qua, bella, te faccio la battuta in faccia, te faccio la faccia così, te faccio mica nostra! Urlavi. So che è difficile, bestia. So che è una fatica improba, ma va fatto. Bisogna conoscere la persona che ci sta accanto, soprattutto quella che ci starà sopra nei prossimi 30-40 anni. Questa mattina stiamo parlando degli Aristodem. Gli Aristodem è anche il titolo dell'indagine socio-antropologica scientifica fatta da Daniela Ranieri, racchiusa in un libro, Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, edizione Ponte alle Grazie, in libreria da oggi, anzi da ieri, oggi sicuramente lo trovate. Con Daniela Ranieri stiamo cercando di mettere a punto un tipo umano che ancora non è ben definito, non è ben uscito come tale, ancora diciamo tutte le riottosità e le alterigie di chi ha un gran dispitto verso questa categoria è indirizzata verso un termine arcaico, desueto, ormai in via d'estinzione, che è il radical chic. Pensate bene e cominciate a pensare e a convincervi che il radical chic non esiste più, è morto, sono morto in una fase ormai terminale. Quello che oggi esiste è l'Aristodem. Ma io ho visto nel tuo libro, Daniela, che c'è una differenza fondamentale, anzi diciamo l'antitesi apicale fra radical chic e Aristodem, che il radical chic, con tutte le sue schifezze, comunque era profondamente, radicalmente laico. Invece l'Aristodem è diventato un neoguelfo, papalino, confessionale. Cosa fanno gli Aristodem dal punto di vista della salvezza della loro anima? Guarda, loro hanno scoperto intanto che la preghiera aiuta i ritmi circadiani, no? Certo, è come un mantra, dicono. Esatto, per una questione di frequenze. Quindi frequentano le chiese di monti, dove trovano peraltro anche l'ostia di Camut. Certo, l'ostia di Camut è un'altra cosa, la grazia glutine, arriva prima. È digeribilissima. Quindi diciamo il loro... Ma è vero, non stai dicendo una cazzata? No, è tutto vero. Cioè ci sono dei preti che fanno l'ostia di Camut per gli Aristodem. Beh, poi... andiamo avanti. È vero nel libro, diciamo, quindi è vero. Confessarsi laici e tanto più atei è considerato molto volgare, certo, materialismo chiaro, così basico. E il radical chic era laico perché era colto. Loro spesso non sono colti, sono veramente hanno una rimasticatura di varie aderenze. Quindi vanno anche a messa. Sì. Questo fanno bene, non è che fanno male. Però vanno a messa, vanno alla messa di Milingo a Zagarolo, amano Jodorowsky, hanno una cultura molto esoterica per quanto riguarda la religione. Però sempre revival di anni 70. Sì, esatto. Hanno dei così degli afflati hippie, no? Amano molto Papa Francesco, sì, al di là Francesco, del fatto che secondo me è un buon che papa, che sia oggettivamente un figo, sì, no? È un buon papa. Però dal loro punto di vista, sai perché? Perché ne vedono questa sorta di matrice quasi grillina, sì, è il papa della natura, il papa degli animali, non è così in molto realtà. Molto biologico, no? Lui è un papa biologico. È un questo, papa biologico, no? E quindi lo vedono come tale. Sì, anticasta, quindi. È anticasta, sì, sembra fatto apposta. Sì, sì. Quindi saranno, diciamo, le nuove schiere, diciamo, del papa saranno composte anche da Aristodem, che sembra un paradosso pensando che sono i figli dei radical chic che in realtà impugnavano l'amore libero, la droga, la trasgressione. A Roma è un triplo salto mortale che parte dal Generone romano, sì, di cui parlava Gadda, attraverso questo militare. Che infatti sono tutti diventati dell'Opus Dei, quelli che una volta erano radicali, certo, è chiaro. Ferruccio da Venezia. Ciao, basso. Ciao Nicoletti. Sì, scusa, abbasso il mio iPad. Dimmi. Io ascoltavo con attenzione la vostra trasmissione. E a un certo punto mi si focalizzava nella testa, e volevo condividere questo pensiero con voi, Fabio Volo. Ma Fabio Volo secondo me incarna molto bene quello che voi state dicendo. No, sei proprio fuori strada, è quanto di più pop possa esistere, è il mito delle coatte. È una versione paracula, è una versione 2.0 del radical chic. No, è Fabio Volo. È livello di congiunzione. No. Fabio Volo è un'altra cosa. Gli Aristodem lo disprezzerebbero molto. Lo dici te, Daniele, lo disprezzerebbero bestialmente, figuriamoci. Sì, sì. Anche perché hanno invidia perché i suoi libri vendono tantissimo. Esatto. E dico, come mai? Poi la tipica frase dell'Aristodem: chi compra i libri di Fabio Volo non li legge. Può essere anche vero, ma comunque vende, fa un prodotto. Loro non piace Fabio Volo, che poi mi sembra in eclissi, è un mito transeunte. Ormai le ragazzine che amavano Fabio Volo sono cresciute, le mamme che lo amavano hanno mai di gran lunga passato la menopausa, quindi non gliene interessa più nulla. Michele da Saronno. Michele. Sì, pronto? Sì. Sì, buongiorno. No, volevo dire come si riconosce in Aristodem, ma meglio ancora i radical chic. Non, i radical chic li dimentichi, sono morti. Però ci sono, non sono morti, ci sono. Ma nei giardinetti vanno con il cane ancora a passeggiare. Sono gli unici che raccolgono la cacca del cane, la incartano e se la portano in tasca a casa, ma sono finiti. Ma non sono quelli che improvvisamente hanno scoperto di avere un'intolleranza alimentare e la curano dal proprio omeopata, perché non hanno il dottore a mano l'omeopata. Questi, Daniela, sono i radical chic. Questi sono i radical. Ma invece l'Aristodem rispetto a loro qual è il passo avanti? Ah, l'omeopatia. Nel vestire, dice, come si vestono gli Aristodem? Ah, ecco, per esempio, no, il radical chic aveva un suo modo di vestire che era andino, sì, era molto appunto radicale, sì, terzomondista, ecosolidale. L'Aristodem invece ha sposato la linea della sobrietà, il cashmere, queste linee un po' morbide, un po' eleganti, ma che non segnalino l'appartenenza a un ceto particolarmente ricco. Ma è vero che mette gli abiti dismessi dei nonni, dei genitori. Ama il vintage, sì, sì, lo ama ancora il vintage. Però si è segnato alto, comunque da una storia familiare. Ma molto alto. Fammi una frase esempio che hai sentito dire nel Rio nei Monti rispetto a una giacca. Sui vestiti. Sì, mi ha detto poco fa. Non me la ricordo. Non te la ricordi, sì, non la vuoi dire. Dai, Emanuela da Piacenza. Buongiorno. Sì. Allora, a me è venuto in mente, non so se è una Aristodem o se è una radical chic, però mi è venuto in mente subito la Melandri. Ma no, è ormai il residuo di radical chicchismo passato, penso, a me, non lo so, non voglio sovrappormi. Daniela Ranieri. Io nomino il Maxi, che è diretto. Sì. Che adesso è... Da Melandri. Il Maxi, se tu hai fatto un giro, non so se ti è capitato di fare un giro al Maxi e guardi le etichette delle opere, vedi che è tutta una metafora, è ancora una metafora come negli anni 70, tutto è metafora del popolo libanese, è metafora del corpo della donna, è metafora di tutto, è tutta una metafora in Italia. Fosse, come se fosse il suo sepolcro, dove si è messa lì, sarà mummificata e rimarrà lì, fra un po' esporranno anche lei come reperto. Sì. Probabilmente però anche lei è fa parte del passato, non è un Aristodem. Ma è in via di transizione, un anello di congiunzione. Ma esiste la transizione, radical chic può diventare Aristodem? Sì, lo sono diventati. Il problema sono i loro figli, non sono loro. Sentiamo Fabio da Empoli. Fabio. Sì, buongiorno. Sì. Secondo me un tratto distintivo degli Aristodem sono la difesa d'oltranza della Costituzione. Cioè, chi vuole cambiare la Costituzione non conosce la storia, sei uno sfigato se non ti sei letto la relazione dei padri costituenti, sei un ignorante. Ecco, quindi voler cambiare la Costituzione, questa retorica della Costituzione più bella del mondo, secondo me costituisce un tratto distintivo di quelli che voi chiamate l'Aristodem. Io sono rimasto affezionato al vecchio radical chic. Vabbè, l'autostalgico. C'è uno che vuol fare un po' lo spiritoso, ma noi rispondiamo, non ci fa assolutamente paura ai termini, domanda. Chiede alla Ranieri l'Aristodem come scopa. Domanda. No, non è una domanda stupida, a parte insomma magari pensava di scandalizzarci col termine scopa, figurati un po'. Però è una domanda intelligente, nel senso che l'Aristodem, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, è molto attratto dai temi della sessualità, ma in un senso molto intellettuale, no? Quindi accademicamente, insomma, nei seminari, nelle loro letture, sono molto vicini al corpo, al sesso, eccetera. Poi però nella loro vita sono molto ritentivi, no? Anche nei loro rapporti. La mia protagonista, che si chiama Luciana, neanche scopa più col marito, col compagno. Questo ovviamente è un classico di Aristodem, diciamo, sì. Ma dando una motivazione, si sente degradata, etica. Diciamo, come donna si sente degradata, lei vuole essere amata indipendentemente dal fatto di avere un apparato genitale femminile. In realtà non le piace più. Non le piace. Si è stufata, sì. È una sorta di anoressia dei sensi. Sì, è per questo che sentono il brividino dello scandalo ogni volta che qualcuno nomina appunto una parola e che riferisce invece a questa sfera. E gli uomini? Gli uomini sono quasi tutti verso la pace dei sensi, no? Quindi usano Viagra queste sostanze? No, non lo usano, no, perché probabilmente non è naturale. Perché non è naturale. Mettono il balsamo di tigre. L'allium cepa. Ah, l'allium cepa. Melog. La realtà condivisa. Mi chiamo Paolo, ho poco più 50 anni, sono circondato da queste persone che tutto sommato considero, chiamiamoli radical chic, ma in realtà forse il termine giusto potrebbe essere snob. Mi è capitato sere fa di andare a cena da una di queste persone e naturalmente il menù era proprio datato, ancora si parla di zuppa di farzo, di orzo tibetano, sempre questi concetti etnici in tutto, penne alla rucola, e me lo sono proprio scritto, penne alla rucola con pesche, pomodori di Malateo e timo, questo timo sempre presente che ti ossessiona, non si sa perché, patate alle erbe di Provenza. Vedi, Daniela Ranieri, con quale geniale intuizione qualche anno fa già un nostro ascoltatore aveva colto i sintomi dell'Aristodem, che tu hai per la prima volta classificato e sistematicamente analizzato nel tuo libro Discorso sui nuovi radical chic, sarebbe gli Aristodem, edizione Ponte alle Grazie. Sentiamo una ascoltatrice che secondo me ha qualcosa da dirci. Rosella. Sì, Rossella, buongiorno. Rossella o Rosella, perché cambia moltissimo. Rossella, due S. Con due S, due L. Allora, non sei Aristodem. Si chiamerebbe Rosella un Aristodem. Lo dirò a mia madre. Aspetta, no, Daniela, hanno dei nomi del cazzo, vero gli Aristodem? Sì. Dimmene qualcuno. Uno si chiama Similaun, perché fa l'artista. Come la mummia di Similaun. Come la mummia. Poi? Poi c'è Giorgio, Sauro, no, Vimecar. Giorgio, ovviamente. Vimecar. Che è una catena di negozi. No, perché il padre spirituale era ebreo. Ah, poi. Frattale, Efim, Veridica, Tertulliano Maria, che questo è vero, sì. Pagoda, Angola. Angola, poi c'hanno i nomi dei luoghi geografici che hanno dove sono stati concepiti. Allora, Rossella. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io semplicemente mi chiedevo se fossi un Aristodem anch'io, perché mangio integrale da qualche anno, sì, che mi fa molto bene, sì. Vivo in mezzo a un bosco, sì. Pratico la preghiera esicastica, sì. Che non è assolutamente esicastica, erano i padri del deserto, quello che praticavano i padri del deserto, i monaci dei primi secoli. Con un sacerdote comunque, in un gruppo di preghiera, non siamo dei seguaci con la spada di fuoco? No, sono brevi ritornelli ripetuti. Ma per so esattamente, guardi, padri del deserto, da Sant'Antonio, sì, agli altri, ma Alco, Ilarione, erano i padri del deserto. Praticavano, sì, questa, sì, preghiera profonda, perché erano innamorati di Dio, ma vivevano nel deserto, non mangiavano una mazza, stanno in piedi sulle colonne, questo facevano. Ci sono vari livelli, non siamo stiliti. Oh. Niente, semplicemente questo, basta. Però c'è questo quadro che state dando, sembriamo degli invasati, ammesso che io sia un Aristodem, io sono molto serena della Lei ha votato Giannino. ho votato Giannino, certo. Mi ascolta è Radio 24? Per un... No, sto mettendo insieme gli elementi. Lei si pone il problema se sia Aristodem o meno. Sì, perché il quadro che ne ho sentito mi sembrano degli invasati anche un po' stupidi, magari sono stupido anch'io per carità, però io sono abbastanza serena, cerco di accogliere gli altri in maniera serena. Lei per l'accoglienza? Ma sì, ma non così tanto per dire. E l'inclusione? L'inclusione... No, la parola va molto oggi, l'inclusione. Se la conosco la evito e se la evito non mi uccide. Vediamo un po', Daniela, fai qualche domanda a Rossella. No, non mi sembri una Aristodem. Perché è intelligente, questa è la differenza. Sì, sì. Capisce che sta lì perché in realtà gli piace il prete, solo questo è l'unico modo. L'Aristodem parte da un substrato di sinistra, tu hai votato Giannino, ti sputerebbero in faccia. Sì. Poi è un dandy Giannino, figuriamoci. A 20 anni ho avuto un interesse per la sinistra, anche perché se studi a Milano per forza tutte le occupazioni le fa la sinistra. Se no non campi, non vivi, non fai niente. Assolutamente, non ti fanno entrare a scuola e le prendi anche se ci provi. E adesso stai spiando? Mi scusi? Stai spiando, diciamo, adesso. Io da fuori osservo, sì, e spero di preparare mio figlio ad affrontare quello che sarà poi il mondo. Come si chiama suo figlio? Alessandro. Ah, beh, un nome normale. Questa è la prova del 9, non è Aristodem. L'avrebbe chiamato Alexandros al massimo se fosse stato Aristodem, minimo. Grazie dell'opportunità. Grazie, auguri, Dio sia con lei. Giovanni. Sì, buongiorno. Dunque, ciao. Volevo dire che ho una collega che secondo me è l'ideal tipo del radical chic. Aristodem, non esiste più il radical chic, non lo dica più questo nome. Aristodem. Sono rimasto radical chic. È rimasto indietro. Aristodem. Comunque, no, volevo aggiungere due elementi. Cioè, questa collega assolutamente tutti i giorni va in palestra e fa anche pilates. Naturalmente, minimo. Che mi sembra... Sì. E soprattutto non ha figli e ci tiene a dirlo che non ha figli, non è sposata per scelta. C'è il maestro di Pilates che provvede alla sua soddisfazione, no? Che va a fare in palestra. La palestra esatto. Serve per questo. E ci tiene a farmi sapere tutte le iniziative di beneficenza che lei. Ad esempio, di cosa si occupa? Gattini abbandonati? Ad esempio, no. Cagnettini con le piattole. Una volta eravamo insieme e scocciata mi ha fatto notare che gli stavano arrivando tutti i messaggini della ONG per bambini abbandonati, non so in Africa. In America Latina, perché lei aveva mandato i contributi e gli arrivavano i messaggi. Contributi, aveva destinato l'8 per 1000, sì. Figuriamoci, massimo. E quant'altro. E poi l'ultima cosa, odia le gerarchie ecclesiastiche, però si fa sempre il segno della croce quando passiamo davanti alla. Ma quello, guardi, posso dire una cosa, onestamente, per la mia formazione, su questo non c'è niente di strano, questo è rispettabile, non mi va di puntare il dito perché si fa il segno della croce, questa è una sua pratica rispettabile. Andiamo sui piani più seri. Daniela Ranieri, mi sembra che non ci siamo ancora. No. È una poveretta in cerca di attenzioni. Sì, l'ISM sono quelle che vanno in palestra, poi riescono a farsi la pizza dopo la palestra, sperando che qualcuno degli sfigati che insieme a loro fa, perché gli sfigati sono gli uomini che fanno pilates insieme alle donne. Orribili sempre. No, ma poi il Pilates lo fanno anche i coatti di Torbella Monaca. Sì, ormai è finito. Magari Zumba Dance sarebbe meglio. Elena di Milano. Sì, buongiorno. Senta, io mi chiedevo, io sono una donna che ha quasi 44 anni e mi sento profondamente di sinistra. Bene. Ecco, però volevo sapere, secondo voi, cioè... amo tantissime cose che con la sinistra hanno poco a che fare. Ne elenchi qualcuna? Ma, il proletariato a partire dall'abbigliamento, a parte il fatto che uno può, quindi come veste che non ha amato la sinistra secondo lei? Non so, mi piacciono le Hogan e poi quest'anno, infatti volevo dirvi, sono un po' anni 90 però io alle anni 90 sì, le cose, ti piace il coniglio alla birra con i finocchi e olive di Gaeta? No, questo no. Non so, se mi sposto, vado a fare un weekend, preferisco avere un hotel bello piuttosto che... guardo dalle 4 tele. Secondo me non ci siamo, questa qua confonde il pauperismo, è lontana. È una filosofia, essere Aristodem, ti devi fare il tofu in casa, capito? Questo non ci siamo. E niente, quest'anno andrò a fare le vacanze così festivo in campeggio, però mi sento un po'... No. Così un po' campeggio, strana, mi dispiace, no. Solo da, No, no, non, Elena, si tranquillizzi, niente. Stai serenissima, vivi la tua vita. Passerà da Leogan da sfigata di sinistra, come siamo, sì, la maggior parte. Da Leogan passerà a De Fonseca, e quando metterà De Fonseca, sì, sì, avrà fatto il salto. Ah, siamo arrivati alla sigla, è finito. Nemmeno Francesco a Milano dice: gli Aristotelici sono trentenne il mondo della comunicazione, ma non so cosa c'entra. Grazie Daniele Arnieri, ricordo Aristodem, il discorso di nuovi radical chic è in crescita e noi la seguiremo dal nascere al suo evolversi, una nuova categoria umana in un libro. A domani, no, anzi a lunedì. Ciao. Venerdì.